GR24, il sole 24 ore. Spending review, sì al taglio dei tribunali, saltano 60 province, evitato l'aumento dell'IVA. Borse in rosso, spread su, l'allarme della Lagarde, l'economia peggiora. Argentina, Videla condannato a 50 anni per il rapimento dei figli dei desaparecidos. Casalesi arrestato, il fratello del boss Iovide imponeva pizzo ai imprenditori del casertano. In diretta da Roma, Andrea Viali. Sì, buongiorno. Mario Monti ha spiegato che il decreto varato nella notte permetterà di risparmiare 26 miliardi in 3 anni. Il via libera, lo dicevi, è arrivato dopo una riunione fiume, un consiglio dei ministri nel quale il confronto è stato a tratti anche aspro. Al termine comunque il Presidente del Consiglio ha ringraziato i suoi ministri e ha sintetizzato così lo spirito del provvedimento. Sentiamo Monti. Tutti i ministri hanno dato prova di grandissimo direi senso di responsabilità per dare il loro contributo a questa missione collettiva di dare più razionalità e più efficienza ai settori di rispettiva competenza. È infatti un'operazione che mira a ridurre gli eccessi di spesa pubblica in una logica di aumento della produttività della pubblica amministrazione e senza intaccare il livello dei servizi. Non la pensano come Monti, invece sindacati ed enti locali, secondo i quali i tagli decisi dal governo avranno pesanti ricadute su sanità e pubblico impiego. Qualche preoccupazione in verità attraversa anche la stessa maggioranza, in particolare il Partito Democratico. Attenzione a non dare una mazzata al servizio sanitario nazionale, avverte oggi Bersani, anche in vista del confronto sui contenuti di questo decreto che approderà in Parlamento il 31 luglio. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. E allora entriamo nei dettagli delle misure varate dal Consiglio dei Ministri. Sentiamo. Alla fine il taglio delle province è arrivato. Saranno dimezzate entro fine anno, dovranno scendere a quota 50. Entro 10 giorni il governo fisserà i requisiti per la loro riduzione, il tutto accompagnato dalla creazione di 10 nuove città metropolitane. È una delle misure più importanti contenute nel decreto sulla spending review approvato a notte fonda dal Consiglio dei Ministri, misure grazie alle quali slitta al secondo semestre 2013 l'aumento dell'IVA. 26 miliardi in 3 anni, i risparmi previsti concentrati su pubblico impiego e sanità, dove vengono però salvati per ora i mini ospedali. Si salva dai tagli, a sorpresa, anche l'università, mentre saltano i fondi per le scuole paritarie. Ridotti del 10% i dipendenti statali, del 20% i dirigenti, tagli del 10% agli organici delle forze armate, dimezzate le auto blu, previsti risparmi del 15% sugli affitti pubblici. Nel complesso la macchina centrale dell'amministrazione pubblica mette sul piatto 1,5 miliardi quest'anno e 3 a partire dal 2013, con la soppressione di 2 enti, Covip e ISVAP. A regioni e comuni vengono chiesti sacrifici per 7,2 miliardi, confermate le risorse per l'estensione delle tutele ad altri 55.000 esodati, che si aggiungono ai 65.000 iniziali. Garantiti infine altri 2 miliardi di aiuti per il terremoto in Emilia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Scende il potere d'acquisto delle famiglie italiane, lo confermano i dati dell'Istat sui primi 3 mesi dell'anno, quando, tenuto conto dell'inflazione, il reddito disponibile in termini reali delle famiglie consumatrici è calato dell'1% su base congiunturale e del 2% su base annua. Continued policy action is needed to boost the recovery. La voce che sentite è del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che ha parlato nella notte da Tokyo, dove si trovava per un convegno. Lo scenario dell'economia mondiale sta peggiorando, ha detto Lagarde. Il fenomeno interessa non solo l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, fino ai mercati emergenti come Brasile, Cina e India, che stanno rallentando in modo più o meno marcato. L'Europa ha fatto progressi venerdì scorso, ha detto Lagarde, ma occorre fare di più. Intanto apertura in ribasso per la borsa di Milano in una giornata che vede le piazze europee ancora sotto il segno dell'incertezza. Ci racconta tutto in diretta Valentina Furlanetto. Sì, apertura e anche andamento per tutta la mattinata, il ribasso della borsa di Milano e anche delle altre borse in Europa, quando lo spread tra BTP e Bund è in risalita, ha toccato 470 punti. FTSE MIB a meno 0,63, FTSE Tolshan meno 0,62, invece a Londra la borsa è intorno alla parità, invece Parigi meno 0,43, Francoforte meno 0,41, gli spunti a Piazza Affari positivi sono quelli della Popolare dell'Emilia Romagna più 1,87%, una giornata in cui i bancari in realtà non vanno affatto bene né in Italia né in Europa. Fiat è la peggiore, meno 3,09%, questa volta in scia della debolezza del comparto europeo dell'auto trascinato al ribasso dalla francese Peugeot. In calo le Unipol, le Fonsai meno 6,8% e meno 6% dopo l'annuncio dei prezzi degli aumenti di capitale che verranno lanciati dalle due compagnie. Sul mercato dei cambi, euro 1,2376 sul dollaro ed è tutto. Grazie Valentina Furlanetto. Voltiamo pagina. L'ex dittatore argentino Rafael Videla è stato condannato a 50 anni di carcere per il rapimento dei figli dei desaparecidos. Con lui condannati altri 4 responsabili della dittatura, pene tra i 15 e i 40 anni. Dal 1976 al 1983 furono più di 500 i neonati sottratti alle madri e affidati ad altre famiglie. Ed ora con la cronaca torniamo in Italia per la sentenza di Cassazione sui fatti alla scuola Diaz di Genova del luglio 2001. Le procedure per la sospensione dal servizio sono già state avviate. Non appena l'iter formale sarà completato, i provvedimenti verranno notificati ai dirigenti di polizia condannati ieri dalla Cassazione. Tra loro c'è chi annuncia la possibilità di ricorrere alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, così come anni fa avevano fatto i genitori di Carlo Giuliani, il no global genovese rimasto ucciso negli scontri del G8 dopo l'archiviazione dell'inchiesta sulla sua morte da parte della procura. Il giorno dopo l'ultimo verdetto sul blitz alla scuola Diaz, la polizia si ritrova scioccata e decapitata, perché tra i condannati ci sono figure di vertice nell'organigramma del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a partire da Franco Gratteri, numero uno della divisione anticrimine, addirittura indicato come uno dei possibili successori del prefetto Antonio Manganelli. 11 anni fa, nei giorni del G8, faceva parte della catena di comando che coordinò l'operazione alla scuola Diaz occupata dai manifestanti no global. Insieme a lui, detective di spicco, quasi tutti promossi nel corso degli anni successivi. Per i giudici, la notte del 21 luglio 2001 verbalizzarono il falso, l'accusa che 11 anni dopo ha retto alla prescrizione e sulla base della quale la Cassazione ieri ha confermato le condanne. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Arrestato Giuseppe Iovine, fratello dell'ex Primula Rossa dei Casalesi, Antonio, catturato un anno e mezzo fa. Iovine teneva sotto scacco il casertano imponendo estorsioni a tappeto da 200 a 1000 euro a commercianti e imprenditori. Nessuno ha però mai denunciato, nemmeno di fronte all'evidenza. Monica Ceravolo ha intervistato Antonio Sepe della squadra mobile di Caserta. Gli imprenditori ormai non hanno bisogno di una minaccia esplicita. In questo caso la personalità del soggetto, fratello, il noto boss, Iovine Antonio detto Ninno, catturato circa un anno e mezzo fa dopo oltre 10 anni di latitanza, era come dire il patentino che gli permetteva di ottenere senza particolari minacce quello che pretendeva, cioè somme di denaro, ma ancora tuttora diffuso un atteggiamento omertoso in molti imprenditori, operatori economici che preferiscono considerare il pizzo quasi un costo di esercizio pur di non denunziare e ammettere di essere vittima delle estorsioni. Testimonianza questa della forte intimidazione che comunque è diffusa in questo comprensorio. 10 anni fa moriva Pietro Valpreda, ballerino, anarchico, incarcerato ingiustamente nell'ambito delle indagini sulla strage di Piazza Fontana. Daniele Biacchessi ha intervistato Mauro De Cortes, amico per lunghi anni di Valpreda, che ha organizzato una serata di memoria stasera al Circolo Ponte della Ghisolfa di Milano. 10 anni dopo cosa emerge dalla figura di Valpreda? Valpreda fu accusato della strage, fece 3 anni di carcere e risultò innocente da 7 gradi della magistratura, 7 processi ci sono stati per la cronaca e nessuno gli neanche gli disse grazie o scusa per il fatto di aver fatto innocente 3 anni di carcere, quindi è un simbolo in qualche modo proprio direi delle ingiustizie che continuano ad attraversare più che mai nell'attualità il nostro paese. se non fosse una storia così prettamente che ci coinvolge personalmente e nei movimenti, potremmo citarlo come l'ingiustizia che è accaduta ad esempio nel Vajont, un'altra grande ingiustizia che è l'emblema di tutte queste vicende. Lo ritieni un'ingiustizia il finale del film di Marco Tullio Giordano, Romanzo di una strage? Beh, sì, perché il film dice una cosa che sostanzialmente mai nessuno, anche le persone che più erano motivate contro quegli spiriti innovativi di quegli anni, hanno mai detto. E del resto anche la recente sentenza della magistratura proprio di questi mesi sulla alla base del libro di Cucchiarelli sull'argomento dice che è assolutamente infondata l'ipotesi che ci fosse stata una doppia bomba e quindi una bomba che Valpreda avrebbe in qualche modo messa. È Alessandro Piperno con Inseparabili, il fuoco amico dei ricordi, editora Mondadori, il vincitore del premio Strega 2012. Piperno ha vinto con 126 voti, solo due in più di Trevi con Qualcosa di scritto, Ponte alle Grazie. Terzo, Già dico caro figlio, con Il silenzio dell'onda, edito da Rizzoli. Sentiamo Alessandro Piperno subito dopo la premiazione al microfono di Alessandra Tedesco. C'è stato un certo punto che ero sicuro di aver perso, non ho altre cose se non metafore calcistiche, cioè come perdere 3-0 e vincere 4-3 all'ultimo secondo, anzi al quarto minuto di recupero. Veramente una straordinaria emozione, non immaginavo. Tu e Trevi siete anche amici, insomma. Io e Emanuele siamo anche amici e così, insomma, sono molto contento per me, mi dispiace per lui, ma insomma. Che cosa cambierà adesso nella tua vita con questo Strega? Credo sostanzialmente niente. Come dire, credo che di essermi guadagnato, come dire, il diritto a starmene un po' per conto mio. Io non sono una persona molto che ama molto andare in giro, promuovere il proprio libro, e diciamo che questa è una promozione talmente gigantesca che insomma, che ci pensa lo Strega per me, io posso stare a casa. È tutto per questa edizione di GR24, curata da Daniele Biacchessi, condotta da Roberta Pellegatta, con la regia di Roberto Scaltritti. Grazie per l'ascolto e un buon pomeriggio in compagnia di Radio 24. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.